Spigo boy, click, click, click, click, oh, oh. Ci sono rimasto sotto, ballo musica house. Il butta fuori, mi sa addosso, mi dice Rouse. Quando vedo doppio, scoppio nel caos. Quando spingo troppo, è da zoppo come il dottor House. Arriva lo squadrone e trema la colonna. Io sono un rimastone, crema pure mia nonna. Rema fino alla sponda, frena la bara onda. A bionda, alzati la gonna. Spingo boy, è la mia causa. Spingo boy, fino alla nausea. Conosci noi, conosci quelli giusti, conosci noi. E poi vuoi che ti frusti. Ma i gusti sono gusti e non discuto. Ma secondo me c'è bisogno del tutor. Tu, come gli zero assoluto, sei gay in più. Ti tolgo tutto, ti tolgo pure il break. Adesso lo sapete, facciamo sempre rete. Se non ti buoni mette, allora fatti prete. Scendiamo nel locale, scende la presa male. Tu non puoi andare al mare, se poi non sai nuotare. Adesso lo sapete, facciamo sempre rete. Se non ti buoni mette, allora fatti prete. Scendiamo nel locale, scende la presa male. Tu non puoi andare al mare, se poi non sai nuotare. L'istinto ti porta a sbottare. Miseria smetti là di guardare. Credi che non ci stai dentro per ammazzare. Mettimi alla prova, io ti faccio scoppiare. SBF sul beat cresta. Mettiti in coda che il biga è in testa. Se con i soci organizziamo una festa, non invito questo scempio d'MC Gensa. 16 pallotte le cariche di testi molesti. Troni rivolti al cielo in onore dei nostri astri. Ma se tu parli il fatto che ritardi, metti questa faccia, ti capisco dagli sguardi. È inutile se come un libro aperto. Mi adori perché guardo studio aperto. A casa ci sto poco perché sono troppo fatto, screccia su sto piatto, screccia su sto piatto. Adesso lo sapete, facciamo sempre rete. Se non ti imponi mette, allora fatti prete. Scendiamo nel locale, scende la presa male. Tu non puoi andare al mare, se poi non sai nuotare. Adesso lo sapete, facciamo sempre rete. Se non ti imponi mette, allora fatti prete. Scendiamo nel locale, scende la presa male. Tu non puoi andare al mare, se poi non sai nuotare. Adesso lo sapete, abbiamo più sete. Spingo boy, click, muovete il culo gente. Portiamo lo stile e il suono prepotente. Quello senza fine perché non si arrende. R.A.P. quando sentite il CD, non potete stare fermi se c'è Mr. Jink. Da Cote Novita non la classe giusta. Se muovi la vita e la testa ti bussa. La tempia ti pulsa, la cassa si scassa. La fresca mi struscia, la coscia e non basta. Si innamora e ti lascia, il rapporto si sfascia. Una troia come Mash e lui ci piscia in faccia. Adesso lo sapete, facciamo sempre rete. Se non ti buoni mette, allora fatti prete. Scendiamo nel locale, scende la presa male. Tu non puoi andare al mare, se poi non sai nuotare. Adesso lo sapete, facciamo sempre rete. Se non ti buoni mette, allora fatti prete. Scendiamo nel locale, scende la presa male. Tu non puoi andare al mare, se poi non sai nuotare.